ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Sedicesima puntata. Del viaggio Ermelinda parlò per mesi. I bagagli si accumulavano e c'era sempre qualcosa da aggiungere, indispensabile per affrontare i disagi del paese. Anche Alfonso accumulava, per gli altri, per il figlio e la nuora e i nipoti che continuavano a nascere, per il kibbutz che faticosamente affermava la propria esistenza. Angelo si occupò dei biglietti, dei passaporti, dei visti necessari. Lello lo lasciava fare. Anche lui metteva da parte medicinali, però senza entusiasmi, soltanto perché così doveva. Gli era nata rispetto a quel viaggio una paura oscura, come se non dovesse tornarne indietro. E c'erano ancora tante cose qui da sistemare. Di fronte all'umore incerto di lui, alle esitazioni e alle resistenze, Alfonso faticava a non perdere la pazienza. Enrico e Mimmo a Napoli avevano bisogno di lei certamente meno di quell'altro figlio, lontano e a rischio. Badava a ripetere che anche di Lello certamente si sentiva la mancanza in Palestina. Benché consapevole della propria centralità nella famiglia, Alfonso per giustizia non dimenticava mai di includere anche suo marito, il padre dei suoi figli. Finalmente i mobili ricoperti da lenzuoli bianchi, le persiane accostate, pulizia e ordine perfino eccessivi. Quando vennero a portar via i bauli, Alfonso permise a Finimola di abbracciarla. Per l'ultima volta la serva se ne tornava al suo paese, in cerca di una vita che le assomigliasse di più. La fretta della partenza asciugò gli occhi a tutti, ma più tardi, sul piroscafo, Alfonso con uno strappo si accorse di aver perduto con Finimola un altro pezzo di sé. Quando arrivarono al kibbutz, Alfonso seppe subito come darsi da fare, come aiutare. La cucina comune, la lavanderia dove nessuno trovava a che ridire dei suoi rammendi sommari. Ermelinda si incuriosiva di tutto, della promiscuità che un poco la scandalizzava e delle russe stelle di Natale che qui erano alberi. Dava consigli e pareri non sempre richiesti. Offriva sementi di fiori nascoste alla dogana con il rischio di problemi in sovrappiù. Monopolizzava l'unica ma ridotta automobile del kibbutz per esplorazioni anche pericolose. E soprattutto l'amicizia che aveva avuto con Maria Montessori l'autorizzava a prescrizioni inderogabili per la casa dei bambini, costruita a loro misura benché con materiali di recupero. Ermelinda se ne entusiasmò. Alfonso la lasciava fare, ma stringeva le labbra, preoccupata piuttosto di imparare qualche parola d'ebraico da scambiare. I suoni aspri le si incastravano in gola. Comunque i bambini riconoscevano il porto sicuro delle sue braccia e con loro non aveva difficoltà di comunicazione. A Givat, Brenner e altrove, Angelo incontrò i maggiorenti della comunità, consegnò loro contributi in denaro, ossequiò e fu ossequiato. Lello, dopo le vaccinazioni e i controlli, si sentì inutile e aspettava soltanto di tornare, perché solo per distrazione aveva consentito che i suoi figli venissero su con quella fiamma, che in Enzo vedeva splendere alta, ma negli altri immaginava covare nascostamente, più pericolosa. E quando si diceva che l'aveva alimentato anche lui quel fuoco, lo prendeva una disperazione senza parole, senza rimedio. Allora abbracciava i nipoti con una passione scorata che spaventava i bambini. Cercava ancora di darsi un tono, diceva «non mi fate perdere tempo» quando i nipoti se ne scappavano via. Ma Alfonso non si ingannava, registrava quegli scivolamenti e ciascuno era il riaffacciarsi di un incubo lontano, non scolorito dagli anni. Mai Alfonso parlò delle sue preoccupazioni, però con Ermelinda bastava un'occhiata, un battito delle palpebre, un gesto per altri invisibile, perché sapevano di essere loro le più forti. Né musei né biblioteche, e anche per le bancarelle dei libri ebbe poco tempo. L'odore dell'aria gli sembrò diverso. Gli ordini erano rigidi, gli appuntamenti per sicurezza decisi all'ultimo momento, e dunque Mimmo restava chiuso nell'alberguccio ad aspettare il segnale. Lo condussero in uno dei soliti uffici clandestini, polveroso e squallido. Non gli dissero chi avrebbe incontrato, né lui si provò a chiedere. «Allora, tu sei il segretario della Federazione Comunista di Napoli», disse l'uomo con gli occhiali e sorrise appena, un'investitura. E subito a caldo una raffica di domande sulla lotta alle deviazioni, notizie e dati del mezzogiorno e delle fabbriche e dei contadini, e solo dopo si presentò. Ercoli, il partito, l'entità sognata per Fede, si faceva carne nel clima arcano di una cerimonia misterica. Una rivelazione di cui Mimmo colse il senso e il peso come sapeva e come poteva. Credo di aver sempre conservato, come allora, un senso quasi di irreverenza di fronte a tutto quanto incarna e rappresenta la lotta della classe operaia e del suo partito. Ma allora, a questo senso di irreverenza si aggiungeva l'emozione per la fine di un'ansiosa ricerca, la sorpresa per quello che a me, così giovane militante, appariva quasi come un onore immeritato. Nel suo capo avevo davanti a me il partito, non più solo quella rudimentale organizzazione che con le nostre forze giovani, ma inesperte e isolate, eravamo riusciti a creare a Napoli. E dietro al capo del nostro partito vedevo tutto il partito, con la sua esperienza, con la sua capacità di direzione, l'internazionale, l'immensa forza del partito bolscevico, del paese del socialismo, di Stalin, tutto il mondo nuovo per il quale volevo dare la mia vita. Di fronte a tanto religioso fervore, Togliatti si mantenne cauto. Sul finire dell'incontro, in quanto indizio di sovversione, Mimmo riferì la filastrocca letta a Roma, sul muro umido di un Vespasiano del Lungotevere. «Qui la faccio e qui la lascio, metà pel duce e metà pel fascio. Ma se il duce le tasse non riduce, niente pel fascio, tutto pel duce». Togliatti rise. Il 14 settembre 1930 Maglio non tornò da Napoli all'ora solita. Alle 6 doveva avere un appuntamento pericoloso con un compagno di cui da qualche tempo non gli pareva di poter essere del tutto sicuro. Quando verso le 2 fummo ben persuasi che Maglio non sarebbe più arrivato, dovemmo deciderci ad andare a letto. Non volevamo che gli avvenimenti dell'indomani, quali che fossero, ci trovassero troppo stanchi per affrontarli come avremmo voluto. Ormai bisognava avere il coraggio di dircelo. Potevano essere quelle le ultime ore che passavamo insieme. C'era sembrato sempre di aver concordato i minimi particolari per il caso dell'arresto di uno di noi. Ma come è differente la cosa quando realmente sta per accadere, quando forse abbiamo solo poche ore o pochi minuti per dirci infinite cose che decideranno, di fatto, della nostra vita a venire. Ci accordiamo definitivamente sul cifrario da adoperare nelle lettere, in caso d'arresto. È un po' difficile, ma forse con un poco di esercizio riusciremo a servircene senza eccessivo sforzo. È la cosa più importante per noi. Se possiamo comunicare, anche imperfettamente, ma sottraendoci alla censura, ci riuscirà più facile restare uniti, vicini, come ora. Ripetiamo ancora quel che risponderemmo alle domande della polizia. Negare tutto, anche l'evidenza, per quel che concerne organizzazione e azione, affermare la propria fede comunista. Finimmo col parlare di cose che ci davano una grande tristezza perché ci facevano sentire la misura del dolore che avremmo provato per il distacco. Parlammo dell'educazione di Ottobrina, dell'indirizzo che avrei dovuto dare a questa educazione, e parlammo della questione più scottante che tanti compagni aveva già reso infelici, di come avrei fatto concretamente ad aspettare che Mimmo tornasse, come in tanti e tanti anni di lontananza avrei fatto per non perdere con lui quel legame intimo, profondo, che faceva di noi una persona sola. Io non avrei voluto parlarne, mi pareva cosa naturale e fuori discussione, ma Mimmo, con la sua solita perspicacia e obiettività, Volle che stabilissimo alcune norme fondamentali che secondo lui erano indispensabili. Finalmente, verso le 10, decidemmo che era meglio che Mimmo fingesse di recarsi, come al solito, all'istituto, per non dare l'impressione di temere la polizia. Lo accompagnai alla porta e ci salutammo a lungo, cercando di imprimerci nella memoria ogni più piccolo particolare del viso, del corpo l'uno dell'altra. Quando Mimmo ebbe sceso le scale, mi precipitai alla finestra per guardarlo ancora un poco, rivedere il suo passo rapidissimo e un poco saltellante, con quella mossa caratteristica dei pantaloni che svolazzano per conto loro dal ginocchio in giù. Sapeva che lo guardavo e alzò la testa. Mi fece un affettuoso cenno di saluto e, senza rallentare il passo, più volte si rivoltò indietro nel salire la lunga via Cecere. Ad un tratto, già molto lontano da casa, vidi una macchina ferma sul ciglio della strada e due uomini che ne discendevano e si accostavano a lui. Lo vidi salire in macchina con loro e partire. In tante discussioni, in tanta sofferenza, Mimmo e Xenia non misero in conto che lui potesse fuggire, sottrarsi all'arresto o almeno renderlo più difficile. Un'eventualità già scartata in anticipo, dunque, come se già il dolore della separazione, della segregazione, pesasse meno del bisogno di essere con piena titolarità all'interno di quel progetto totale, il partito. All'arresto reagì come si era prefissato. Il vuoto di paura allo stomaco non lo aveva previsto, ma passò presto. E già nella cella isolata della questura, aspettando gli interrogatori, Mimmo fece ginnastica e ad alta voce declamò versi per non perdere le abitudini. Con i questurini si confermò se stesso facilmente. Ragazzi meridionali incantati dalla sua eloquenza di professore e non sapevano cosa domandargli. Il questore Agnesina, quando arrivò, fu brusco e breve. Rinunciò a farlo confessare e ordinò che lo riportassero in cella. Di nuovo in isolamento, Mimmo ha un momento di euforia, sa di avere spaventato qualcuna delle certezze del regime e se ne compiace, ma il buio scende e il sonno non vuol venire. I pensieri di fuori si affacciano alla mente come sempre e invece qui sono pericolosi. Non pensare al corpo di Xenia, non immaginare il suo odore e i gesti. Steso sul pancaccio, Mimmo stringe le dita e le allarga, torce le caviglie e poi le lascia andare, inspira a fondo e poi espira. Calmato dal fare, lascia che gli vengano alle labbra parole, i versi danteschi di Ulisse e della sua sfida. Li recita a voce via via più alta, certo che vi sia chi lo sta ascoltando e riferirà. Dopo 8 giorni giunse la sua lettera da Napoli, carcere di Poggio Reale, censurata dal tribunale speciale fino alla 3ª pagina. Era una cozzaglia di frasi fatte. Solo verso la fine mi diceva che stava bene, che leggeva tutto il giorno seduto per terra e appoggiato alla branda, che aveva bisogno di molti libri, che non avrei potuto ottenere il colloquio, ma che 2 volte alla settimana potevo venire a portargli la biancheria pulita, ritirare quella sporca e lasciargli qualcosa da mangiare. La prima parte della lettera mi sembrò tanto strana che stavo già immaginandomi chissà quali cose quando mi accorsi che incominciava con cara e non con carissima. Era il segno convenuto per farmi capire che la lettera era cifrata. Un'ansia mi prese e se io intanto mi fossi scordata il sistema, mi chiusi in camera e provai a decifrare. Come avevo potuto pensare una simile sciocchezza? Lettera dopo lettera, sillaba dopo sillaba, le frasi balzavano fuori, quasi non m'accorgevo come. Mimmo diceva che era stato interrogato, che non aveva parlato, ma altri avevano parlato compromettendolo. Ne aveva i nomi e mi raccomandava di attenermi sempre alle norme stabilite. Negare tutto. Sul foglietto a formato regolamentare c'era il timbro del tribunale speciale e la firma del direttore del carcere. Tutta gente che aveva letto e non s'era accorta di nulla. Il nostro metodo, dunque, ormai, era una cosa seria e proprio vera. Fino allora esso esisteva soltanto nella nostra immaginazione e qualche volta mi sembrava non fosse che un gioco. Ed ecco che invece il gioco diveniva realtà. Si trasformava in qualcosa che per noi poteva avere una grande importanza, qualcosa che poteva decidere della nostra vita in un senso o nell'altro. Essere in così stretti rapporti con Mimmo mi dava un gran senso di sicurezza e di fiducia, ed esserlo di nascosto da tutti mi metteva addirittura in uno stato di euforia vicino all'esaltazione. Un po' troppo, a dire il vero. Per avere un contegno naturale, da non meravigliare nessuno, avrei dovuto mostrarmi afflitta, o almeno molto preoccupata. Ed io non lo ero affatto, proclamandomi tanto sicura dell'innocenza di Mimmo da far dire a qualcuno che ero contenta di essermi sbarazzata del marito per chissà quali mie ragioni personali, e ad altri che certamente ero al corrente di tutta l'attività politica di Mimmo ed ero tranquilla perché avevo preso ormai contatti col partito. Quest'ultima versione mi preoccupava un poco, perché effettivamente era venuto da me in quei giorni un compagno mandato dalla direzione del partito. Volevano avere notizie sull'arresto. Volevano sapere chi aveva parlato dopo l'arresto e possibilmente chi aveva tradito in principio. Sapevo ormai molte cose dalle lettere di Mimmo e fui molto fiera di poter rispondere con precisione a tutte queste domande. I ferri gli indolenzivano i polsi e il detenuto barbiere gli aveva fatto un taglio che ora tirava e bruciava. Ma tutti i piccoli fastidi della detenzione e dell'isolamento sparirono d'un tratto quando Mimmo incontrò gli occhi di Manlio e si sorrisero. Non potevano parlarsi e del resto non ce n'era bisogno. L'ironia increspò all'unisono le labbra di ambedue quando i 7 consoli della milizia sfilarono nell'aula verso gli scranni, tronfi e pomposi nelle alte uniformi. Entrò il presidente della corte, sua eccellenza e luogotenente generale, l'onorevole Guido Cristini in persona. Come gli altri posò davanti a sé il cappello a cono, ridicolo, tutto ornato di frange e nappe dorate. Per i giudicandi la sua presenza fu come una medaglia al valore, il riconoscimento del loro essere imputati di rilievo e non rivoluzionari a tempo perso. L'accusa si dilungò in presunte prove e in analisi psicologiche che si volevano sottili. Il quadro che veniva fuori di loro li esaltò e insieme li divertì non poco. Che Manlio avesse, per coprire gli operai, addossato qualche colpa in più a Mimmo non era importante, perché si capiva che tutto era già stato stabilito in anticipo e perché a dichiararsi comunista nessuno dei due rinunciò. La sentenza li confermò fratelli, identici nel destino che avevano scelto di condividere. Letti ed applicati gli articoli 4-7 della legge 25-11-1926, numero 2008, 13-20-28-36-39-68 codice penale, 551 e seguenti codice penale esercito, dichiara Rossi Doria Manlio e Sereni Emilio responsabili dei delitti loro addebitati in epigrafe, infligge loro i massimi delle pene previste per tali delitti ed operato il cumulo giuridico, condanna ciascuno ad anni 15 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale della pubblica sicurezza ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto in giudiziale sequestro. Roma, 28-11-1930, anno ottavo. Malgrado i ferri, prima di salire ciascuno sul cellulare destinatogli, riuscirono ad abbracciarsi. A minuti, disse Mimmo. A minuti, rispose Manlio. Cosa importavano gli anni? Cosa importava la galera? Certo, la rivoluzione sarebbe arrivata in fretta a cancellare tutte le costrizioni e tutte le ingiustizie. Quando i carabinieri li separarono, avevano gli occhi umidi, tutti e due, ma soltanto per l'emozione. Quando anche noi abbiamo finito di cenare, viene la telefonata. Sono contenta di essere arrivata al telefono per prima, così la notizia l'avrò io, sarà mia prima che degli altri. Un lungo discorso dell'avvocato, 3 capi d'accusa, 20 anni, cumulo delle pene. Quanto, insomma? 15. Dico agli altri, non è poi tanto male, ci aspettavamo il doppio. Davvero possiamo essere contenti? Ma ho bisogno di chiudermi in camera, di essere sola. Non c'è più lo stato d'euforia, non c'è più la nebbia. Ora è tutto chiaro e molto semplice. 15 anni. Finito l'eroismo che accompagna gli avvenimenti straordinari. Ora non ci sarà più niente di eroico. 15 anni, fatti di tanti giorni uno uguale all'altro, pieni delle stesse difficoltà, delle stesse tristezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bimba crescerà, andrà a scuola e dovrò tirarla su io sola. Sarò responsabile della sua formazione intellettuale e morale. 7, 8, 9, 10, 11. Io cambierò certo molto fisicamente. Mi invecchierò. 12, 13, 14, 15. Avrò quasi 40 anni quando Mimmo ritornerà. E Ottobrina 16. Una ragazza, quasi una donna. Mi chino sul suo lettino, alle guancette rosse di sonno e le braccine paffute buttate una di qua e una di là della testolina bruna, così piccola, così fragile. E ad un tratto una grande pietà mi stringe alla gola per questa nostra piccina, e forse un po' anche per me, sola con lei per tanti anni. La porta è chiusa a chiave e la bimba non mi sente. Posso piangere. Ma di là aspettano, chissà cosa pensano di me. Cerco di frenare i singhiozzi, aspetto che le lacrime mi si asciughino da sole, senza strofinare gli occhi per non farli diventare rossi. Poi torno in camera da pranzo, non voglio che possano immaginare che mi sia lasciata prendere dallo sconforto. Arriva zio Angelo, che come avvocato ha potuto assistere al processo, ma dice poco, è troppo commosso e addolorato. Non può capire come faccia un uomo che ha famiglia a occuparsi di una politica che lo fa andare in galera. Dice, con dolorosa meraviglia, che i giudici hanno definito Mimmo freddo, scaltro e calcolatore. No, non può proprio capire, perché lui Mimmo lo conosce da piccolo, sa che era un bambino che sapeva quel che voleva, ma che era buono e affettuoso e attaccato alla famiglia. È inutile che io tenti di spiegargli che anche adesso è attaccato alla famiglia. Ho una gran voglia di aprire la bocca, ma poi mi viene in mente che l'effetto delle mie parole, certamente in questo momento, sarebbe diverso da quello che io desidererei. Qualche giorno dopo il processo viene una sua lettera ai genitori. Sono contenta che abbia scritto a loro e non a me. Io e lui siamo la stessa persona, abbiamo agito insieme. Non è necessario che mi consoli né che cerchi di spiegarmi nulla. È giusto invece che lo faccia verso i genitori, ai quali lo lega, oltre ad un profondo vincolo d'affetto, una grande riconoscenza per quel che a lui hanno dato, per la dirittura, l'onestà, la serietà che in lui hanno coltivato e che gli hanno insegnato ad apprezzare sopra ogni altra cosa. Questo infatti egli scrive, pur dolendosi di aver dato loro un grande dolore, dice di essere certo che, pur nel dispiacere, essi non possono non riconoscere nelle sue azioni le conseguenze di quei principi di dirittura morale che gli hanno instillato fin da bambino.